Siamo con Paola Pace, autrice, attrice dello spettacolo Goliarda Music Hall a Roma, al Teatro Palladium, dall'11 al 14 ottobre. Paola, ben trovata. Ciao, ciao, bentrovati a tutti voi. Cos'è questo spettacolo? Nasce dal mio grande amore per Goliarda Sapienza, questa autrice che è morta nel 1996 e che in pochissimi conoscevano e che negli ultimi anni è stata riscoperta, valorizzata soprattutto dalla Francia e poi dall'Italia, è stata pubblicata da Einaudi, il cui capolavoro, L'arte della gioia, diciamo, è diventato una sorta di libro guida per tantissime donne contemporanee, insomma, la protagonista dell'arte della gioia Modesta, questo è il suo nome. Una volta tanto un personaggio femminile molto bello, libertario, avventuroso, che deve passare molte fasi difficili per alla fine, insomma, riappropriarsi della propria identità e della propria capacità di scelta libera. Quindi un'autrice Goliarda Sapienza è diversa da tutte le altre, da tutti gli altri, nel senso portatrice di una grande visione libertaria dell'esistenza. E così, diciamo, io traggo il mio spettacolo Goliarda Music Hall da un suo romanzo che si chiama Il filo di mezzogiorno, anch'esso molto suggestivo, che racconta la sua storia reale con questo psicanalista negli anni 60, questa terapia che poi sfociò in una grande passione, per cui poi lui, lo psicanalista, fu espulso dalla SPI, la Società Psicanalitica Italiana. E lei però, che aveva ricevuto l'elettroshock, in qualche modo, insomma, attraverso questo incontro, questa terapia, incontro con questo medico, in qualche modo ritorna alla vita e alle sue avventure. E quindi ha delle pagine di grande bellezza letteraria, però contemporaneamente oscilla un po' tra il delirio e la grande lucidità filosofica che contraddistingue, diciamo, la scrittura di Goliarda. E l'ho chiamato Music Hall perché l'ho diviso in cinque capitoli, diciamo contraddistinti da temi che secondo me sono importanti nell'opera di Goliarda Sapienza, quindi è morti, natura, filosofia al bar, sicul tragico, perché Goliarda era di padre catanese e di mamma lombarda, e per finire amore e rivoluzione. E ogni capitolo è chiuso da una canzone della tradizione anarchica, alla chitarra e canto, Marcello Savona e Maria Piazza. Ecco, qui stanno provando una delle canzoni. E credo che sia l'inno dei malfattori. Paola, quali sono le peculiarità di Goliarda che ti piacciono di più e come le hai valorizzate nel tuo spettacolo? Guarda, la cosa che sicuramente originariamente quando ho scoperto questa autrice, diciamo tanto tempo fa, nel 1999, attraverso Angelo Pellegrino, che è stato suo marito e che è l'erede letterario, il curatore della sua opera, la cosa che mi ha colpito immediatamente, innanzitutto una scrittura molto suggestiva nella sua originalità, nel senso molto impressiva, lavora benissimo con le emozioni, certe volte quasi giocando con un barocchismo, per poi invece essere super essenziale, contemporanea, freudiana quasi. Goliarda sosteneva che dal 1900 in poi un artista che non avesse fatto psicanalisi non poteva operare, secondo lei, e in effetti si ritrova tantissimo. l'analisi, diciamo, nelle sue opere, e questa grande libertà mentale, vera, profonda, che viene, da questa, appunto, questa singolare, diciamo, formazione, nel senso che Goliarda era figlia, di due, socialisti anarchici veri, che proprio facevano la rivoluzione, cioè l'avvocato dei poveri, cosiddetto Catanese, Peppino Sapienza, e la mamma Maria Giudice, che era stata la prima donna a capo della Camera del Lavoro di Torino. Maria Giudice, grande rivoluzionaria, che quando doveva fare le sue lotte, finì in prigione con Pertini e Terracini. Quando doveva fare le sue lotte, siccome aveva fatto un sacco di figli, affidava i figli a Gramsci, per intenderci, diciamo, l'entourage. E Goliarda, diciamo, risente di questa formazione, insomma, molto impegnata politicamente. E poi lei va oltre, diciamo, infatti ne parla soprattutto il suo primo libro, Lettera Aperta, racconta un po', tutti i suoi dubbi, perché essendo una libertaria, le sembrava certe volte, claustrofobico, diciamo, rimanere, troppo nei recinti ideologici. E quindi, in fondo, la cosa che mi colpisce di più è questo faro della libertà, diciamo, di cui è portatrice. Che percorso sta facendo il tuo spettacolo? Allora, stiamo provando, debuttiamo l'11 ottobre al Palladium, e tra l'altro il giorno della prima, lo spettacolo inizia alle 20:30, però alle 18 c'è un convegno su Goliarda Sapienza, organizzato dall'Università Roma 3, dove verranno presentati dei saggi, degli studi molto interessanti, coordinati dalla professoressa Laura Fortini, e appunto saranno presentati questi lavori di una ricercatrice dell'Università Inglese, di Oxford, Alberica Bazzoni, e di un'altra ricercatrice invece dell'Università di Catania, Maria Rizzarelli. E poi alle 20:30 debuttiamo, siamo dall'11 al 14, quindi da giovedì fino a domenica, al Teatro Palladium di Roma. Poi invece, a fine novembre saremo a Catania, quindi nella città natale di Goliarda, e insomma, stiamo organizzando un giro. Siamo in scena con me Giovanni Rizzuti, che interpreta lo psicanalista, e i due cantanti chitarristi, come dicevo, Marcello Savona e Maria Piazza, e le luci sono di Roberto Zorzut, e le scenografie di Fabrizio Lupo, con il team dell'Accademia delle Arti di Palermo. Bene. In chiusura ci lasci dei riferimenti internet per saperne di più? Certo, se vi collegate al sito, del Teatro Palladium, fatto molto bene, devo dire che trovate tutte le informazioni. Oddio, adesso a memoria non Va bene, sì, sarà si può cercare. www, bla bla bla, Teatro Palladium. Allora, ricordiamo l'appuntamento con Goliarda Music Hall a Roma, al Teatro Palladium, dall'11 al 14 ottobre. Un saluto e un ringraziamento all'autrice, attrice Paola Pace. Paola, un abbraccio, un in bocca al lupo, Grazie, un a abbraccio, risentirci spero di presto. vederti. Ok. Ok, un abbraccio, Ciao. grazie. Ciao.